piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Irene Distinto si è sempre occupata di marketing e assistenza clienti in svariati settori. Contratti a termine, mai un problema però a trovare un impiego, finché il coronavirus non ha chiuso le aziende. Da Verona, dove vive, è una delle persone senza reddito che si offre per lavorare in agricoltura. Secondo me è opportuno anche adeguarsi a quello che offre il settore lavorativo. Nei campi mancano i braccianti stranieri, bloccati nei loro paesi. E le persone come Irene, che al momento non hanno entrate, si fanno avanti al posto loro. Non mi è mai capitato prima di vedere così tante persone che si rivolgono a noi, laureati in storia dell'arte, esperti di marketing, quello che ha perduto il lavoro. E in altri casi invece sono persone proprio che sentono l'importanza dell'approvvigionamento del cibo. È un dato di fatto incontrovertibile. Ci troviamo in un momento di grossa crisi di persone che mettono le loro braccia per lavorare la terra, per raccogliere i frutti della terra. Mancano quest'anno, è notorio, qualcosa come 200.000 braccianti agricoli. A fronte di questo problema, di cui sta molto discutendo perché ha importanti implicazioni anche su un piano di gestione di quelli che sono gli ingressi di immigrati nel nostro paese, quindi con tutta la conseguenza polemica ideologica che ci può essere dietro, sfruttamento politico delle paure e via dicendo. Però c'è qualcosa che è singolare, è un fenomeno da registrare, è positivo, mette anche un certo senso di ottimismo. C'è un numero cospicuo di italiani che, a fronte di questa profonda e innegabile crisi occupazionale, economica, sta pensando di tornare a lavorare la terra. Di questo ne parleremo in maniera dettagliata in questa trasmissione, però mi si permetta una mia personalissima valutazione. Io uso il termine lavorare la terra, che di solito usa solamente chi è stato a contatto con i lavoratori della terra. Normalmente chi vive una realtà urbana o cittadina non usa questo termine. Ero abituato a sentire dire a casa: cosa facciamo noi? Lavoriamo la terra. Perché io, diciamo, dall'età della nascita fino a circa 15-16 anni ho vissuto in una famiglia che gestiva un'azienda agricola. Quindi il lavoro della terra lo conosco. Lo conosco nei suoi aspetti reali, concreti, crudi, non certo sempre romantici. Quello che si fa molte volte, andando a fare un certo particolare tipo di turismo, andando nella seconda casa in campagna o in montagna, occupandosi dell'orticello nel terrazzo di casa, capendo per un contatto avuto in vacanza o in occasioni di futile motivo di conoscere realtà diverse dalla propria, è tutt'altra cosa rispetto alla realtà. Lavorare la terra significa essere condizionati dai ritmi della terra, essere condizionati dalle circostanze meteorologiche, potersi vedere distrutto e vanificato tutto il lavoro di una stagione soltanto per una grandinata, per una gelata, per una siccità. È qualcosa che ha un estremo fascino da un punto di vista della narrazione, qualcosa di molto duro, molto faticoso, che richiede un grande impegno, perché si ha a che fare con qualcosa che ha una sua realtà vitale, una sua essenza. Non è semplicemente come piegare il ferro, non è semplicemente come modellare il legno, non è semplicemente come immaginare, pensare, studiare, fare meccanismi, organizzare masse umane, lavorare nell'economia, giocare con i numeri, con le cifre. È qualcosa che implica un forte coinvolgimento non soltanto della propria parte intellettiva, ma della propria parte fisica. Quindi questa mattina parleremo con piena consapevolezza del desiderio, della necessità, della vocazione di molti italiani di tornare a fare un'attività che per tre generazioni sembrava ormai lasciata dietro le spalle, anzi in molte realtà era qualcosa che in qualche maniera significava un passaggio generazionale che è avvenuto. I miei nonni facevano i contadini, i miei genitori lavoravano la terra, io poi ho studiato, mi sono emancipato, ho preso una laurea, ho fatto qualcos'altro. Legato a un'idea che rappresentava e congelava una realtà passata in cui il lavoro della terra era destinato e relegato a una fetta di popolazione che indubbiamente viveva fino agli anni 50 e 60 nel nostro paese, in molte realtà anche italiane, in condizioni che erano più o meno simili a quelle che impegnavano negli stessi lavori generazioni anche soltanto un secolo prima. Rimaste al palo per il Covid, per combattere le difficoltà occupazionali, garantire le forniture alimentari e per stabilizzare prezzi ed inflazione, è partita, autorizzata dal Ministero del Lavoro, l'iniziativa Job in Country, con le aziende agricole che possono assumere lavoratori con le più diverse esperienze, dagli studenti universitari ai pensionati, dai cassa integrati ai laureati. Noi aziende possiamo assumere al lavoro gente che è in cassa integrazione, gente che va a scuola e ha finito gli studi, lavoratori stagionali che possiamo lavorare in dei campeggi, in delle pizzerie. Quanti di voi hanno una vocazione, diciamo, genetica al lavoro della terra, perché avete avuto genitori, nonni, parenti, o voi stessi in una fase della vostra vita avete lavorato la terra? Quanti di voi sarebbero disposti a farlo, uscire dalle proprie abitudini professionali, lavorative, di contatti sociali? Sì, perché il lavoro della terra cambia completamente anche la nostra vita sociale. E quando torni a casa la sera che hai lavorato la terra, hai le mani sporche, hai calli, hai una stanchezza profonda, hai voglia soltanto di andare a dormire. 800240024, ringrazio intanto in regia da Milano Carmelo Lauricella, in assistenza Alessandro Marco Tulli, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Intanto saluto il mio ospite che è Romano Magrini, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Che è responsabile del lavoro della Coldiretti e anche responsabile di Job Country. Job in Country è la, diciamo, l'iniziativa che è stata lanciata appunto da Coldiretti, che sta già raccogliendo un numero entusiastico di persone disposte a fare questo lavoro. Quali sono i vostri numeri e come nasce la vostra iniziativa Job in Country? Allora, l'iniziativa nasce appunto per cercare di dare una risposta immediata ad una carenza di manodopera che, come diceva Nicoletti all'inizio, si è venuta a creare in questa emergenza Covid-19. Perché all'inizio, quando ci sono state le prime avvisaglie, moltissimi lavoratori provenienti in particolare dall'Est Europa, Romania e Polonia, sono partiti immediatamente per le proprie paesi di origine e sono rientrati a casa. Lei consideri che in Italia la struttura occupazionale del settore agricolo parla di 1.200.000 lavoratori dipendenti, di questi circa 1.000.000 sono lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato, e di questi, di questo 1.200.000, 370.000 sono lavoratori non italiani. E di questi 370.000, circa 200.000 sono di queste due stati, cioè rumeni e polacchi. Quindi sono quelli che mancherebbero all'appello per le necessità di questa stagione, praticamente. Bravissimo, esattamente questa la foto, da questi anche i numeri, perché questi sono lavoratori che sono anni che vengono in Italia, lavorano per una stagione più o meno lunga, che può essere dai primi di marzo, poi loro si spostano nelle varie regioni, nelle varie province, quindi fanno più attività e magari stanno in Italia 5, 6, 7, 8, 10 mesi e poi magari rientrano nel proprio paese d'origine e sicuramente contribuiscono a che la propria famiglia che vive in Romania piuttosto che in Polonia abbia una vita dignitosa. Quindi immagino questo sarà anche un danno per l'economia delle famiglie che normalmente erano abituate nel flusso dell'anno avere per alcuni mesi dell'anno comunque un salario certamente, stabilito e su cui potranno contare. Certamente, perché chiaramente anche per loro non è che godono di chissà che cosa. Loro sono partiti immediatamente, per cui magari ancora o magari non sono proprio arrivati perché dovevano arrivare nei mesi in cui è iniziata la pandemia e quindi non sono proprio arrivati. Cioè, noi ne parliamo dal 24 di febbraio, per cui dove in Italia, quando in Italia è esplosa sempre più in maniera pesante la pandemia, e proprio quelle sono le settimane, i mesi nelle quali arrivano i lavoratori, no? Perché si inizia con le primizie, con gli ortaggi sotto serra, poi si arriva alle fragole, poi si arriva agli ortaggi in pieno campo e poi alla frutta, quindi quello è proprio il periodo in cui si approccia, no, a venire in Italia. E quindi le posso fare una domanda, Magrini? Mi interessa, anche così do degli elementi al nostro, certo, pubblico. Voi avete fatto una sorta di appello online in un vostro sito Job in Country, avete praticamente chiesto: noi abbiamo bisogno di questa forza lavoro, chi è disposto a venire a lavorare? Naturalmente a delle condizioni trasparenti, quando stiamo parlando, assolutamente, e anche tutti i lavoratori che lei stava elencando erano lavoratori comunque, se in qualche maniera sono censiti, avevano un trattamento economico e un trattamento professionale che rientrava nelle regole di legge, immagino, di questo stiamo parlando. Certamente, nel senso che sono lavoratore, ma peraltro, ascolti, quando un lavoratore è un lavoratore bravo, che tutti gli anni torna nella propria azienda, il datore di lavoro, l'imprenditore, si affeziona a quel lavoratore e soprattutto quando uno è bravo gli consegna anche molto del lavoro dell'azienda, perché se si può fidare, l'imprenditore fa un altro mestiere, inizia a fare altre cose, quindi si affida anche a queste persone, quindi si va anche ben oltre quella che è la retribuzione contrattuale prevista, no? Che è il minimo garantito, no? dai contratti provinciali, ma si va ben oltre, dall'ospitalità. Mi fa capire una cosa, Magrini, sì. Come mai in Italia devono venire 20.000 persone da altri paesi? Da un certo punto in poi, magari mi aiuti a capire quando è avvenuto questo fenomeno, gli italiani hanno un po' disertato il lavoro della campagna? Allora, hanno iniziato a disertare il lavoro della campagna ormai da decenni, no? Negli ultimi 5-6 anni c'è un'inversione di tendenza, nel senso che, lo diceva anche nella prefazione Nicoletti, c'è una nuova scoperta. Prima dire braccia rubate all'agricoltura era una sorta di affermazione, tra virgolette, dispregiativa, mi faccia passare il termine. Magrini, l'Italia del boom economico era un'Italia prevalentemente rurale. Agricola. Certo. Io mi ricordo quando le famiglie dei contadini, dopo la mezzadria, dopo tutti i passaggi sono stati dagli anni 50 agli anni, metà degli anni 60, si emancipavano dalla loro condizione di contadini, i ragazzi, era quasi un senso di orgoglio dire: non faccio più il contadino, esatto, come mio padre, come mio nonno. Esattamente. Anche perché la situazione, diciamoci la realtà, non era una situazione rosea rispetto, no, all'Italia che risorgeva e cominciava ad andare in vacanza, averci le case arredate con i mobili americani o svedesi, come si chiamava. Pensare ancora a persone che andavano nella stalla a piedi nudi a mungere le vacche, a portare al pascolo gli animali, c'era un grosso divario. Assolutamente sì, e oggi è invece l'esatto opposto. Quello era il tempo dello spopolamento delle campagne, no? Per cui la gente che dalla campagna andava a vivere in città, si emancipava, studiavano i figli, trovavano un mestiere, andavano a lavorare in fabbrica piuttosto che nel pubblico impiego, da qualsiasi altro, e quindi c'era l'emancipazione. Oggi c'è invece una migrazione di ritorno, mettiamola così, c'è una riscoperta della campagna, c'è una riscoperta dell'importanza della campagna e quindi della produzione di prodotti che siano fatti in un certo modo, che seguano degli standard fatti in un certo modo, ma anche il vivere in campagna, quindi sì, è cambiato completamente. Senta, volevo, se lei mi permette un attimo, cominciare a dare qualche testimonianza, visto che il pubblico ci attende con attenzione, certo, molto mirato nelle sue risposte. Abbiamo Jessica da Rimini. Jessica, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sono Jessica e chiamo da Rimini. Io intervenivo perché ho un passato vissuto in campagna insieme ai miei genitori e la voglia poi di emanciparmi e trovare un lavoro impiegatizio. Questo perché, lo dico, perché all'epoca ho vissuto le privazioni, ho vissuto comunque l'idea che la campagna… Di che anni parla lei, Jessica? Così chiariamo anche il periodo. Io negli anni 80, perché comunque io ho 45 anni e di conseguenza ho dei ricordi della vita in campagna e di come… un temporale improvviso potesse azzerare il raccolto, e questa immagine comunque dei miei genitori impotenti sotto il portico a fissare comunque la campagna, che in quel momento non era più fonte di reddito. E lo dico perché apprezzo il fatto che molte persone vogliano tornare a questa vita bucolica. Allo stesso tempo li guardo un po' in maniera disincantata, perché credo che molti non si rendano poi conto di quanto la vita in campagna dipenda dalle temperature esterne, da una gelata improvvisa che non puoi prevedere, e quindi penso che a fronte di tanto entusiasmo, per quanto io vada a trovare i miei genitori, però abbia scelto una vita diversa anche per non ritrovarmi in questo momento, cioè in quel momento particolare. Jessica, ma noi infatti con Magrini adesso, da qui, adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo la pausa, cerchiamo di dare una visione realistica di quello che è, perché gli italiani non possono pensare che la vita in campagna sia l'agriturismo dove vanno a passare 15 giorni all'anno, o un museo della civiltà contadina che ci sono in molte città, è bello, si vedono gli aratri, si vedono le macine per il grano, si vedono gli oggetti di casa, ma sono oggetti che una cosa è vederli in un museo a distanza di decenni, belli, puliti, verniciati a lucido, una cosa è vederli ogni giorno intrise del proprio sudore, del proprio sangue, della propria fatica, delle proprie bestemmie perché le cose non vanno come dovrebbero, perché il tempo è stato inclemente, perché qualcosa d'improvviso ha vanificato il nostro lavoro e la nostra fatica. Ci fermiamo solo un istante. Melog 0024 0024, stiamo parlando del progetto Job in Country, che darebbe la possibilità di andare a lavorare la terra per gli italiani che desiderano, hanno necessità, hanno desiderio, vogliono tentare la strada di cambiare le loro abitudini di vita e occuparsi di quelli che sono i lavori che in questo momento sono urgenti per la raccolta e per l'approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità. Manca un numero considerevole di lavoratori che venivano da paesi stranieri, 200.000 braccianti, quindi bisogna che gli italiani si tirino sulle mani, che qualcuno faccia questo lavoro. Stanno arrivando tantissime telefonate di persone che hanno avuto l'esperienza comunque della terra, esperienze positive, esperienze negative, esperienze critiche. Li sentirò tra un istante, prima provo a tornare con Romano Magrini, che ricordo è responsabile del lavoro della Coldiretti e responsabile di Job in Country, che è l'iniziativa di Coldiretti per aprire un canale di comunicazione tra chi vuole offrire le proprie braccia e chi dà lavoro per queste braccia. Allora, se dovessi, Magrini, riassumere le telefonate, tra un po' sentiremo assieme, le persone vogliono, ribadiscono il concetto che avevo velatamente accennato all'inizio. Non pensate che il lavoro della terra sia un lavoro semplice. Quale tipo di lavoro viene offerta? Quale caratteristica di disponibilità o di capacità deve essere fornita da chi si accinge a fare questo lavoro? E quale probabile formazione potreste dare voi? Allora, intanto le do qualche numero. Attualmente Job in Country ha oltre 10.000 curriculum di lavoratori disponibili a venire a lavorare in agricoltura caricati, più innumerevoli contatti avuti. Gente che avrà comunque un lavoro, cioè 10.000 persone che avranno un lavoro, non saranno più disoccupati. Ecco, sulle quali stiamo lavorando appunto per incrociare appunto la domanda e l'offerta, cioè la disponibilità dei lavoratori a fronte di una domanda delle aziende. Consideri che di questi lavoratori che si offrono abbiamo una variegata gamma di soggetti, cioè sarà da studenti che frequentano corsi universitari, a pensionati, a molti disoccupati che hanno perso il lavoro magari in nero in quel periodo e quindi non fruiscono neanche degli ammortizzatori sociali. Come fa capire una cosa, visto che tocchiamo subito il problema che è pregno di possibili polemiche, ma tutte le persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza, fra le offerte di lavoro non ci può essere anche questo tipo di lavoro? Ci sarà, oggi no, certo, o meglio, oggi c'è, nel senso che il percettore di reddito di cittadinanza trova lavoro in agricoltura, quindi perde il reddito di cittadinanza e inizia a lavorare in agricoltura. E questo è assolutamente... Il senso non era proprio questo del reddito di cittadinanza, cioè certo. Il navigator non dovrebbe venire da lei e dire: guarda, ho tante persone che prendono reddito di cittadinanza, offritemi dei lavori per queste persone. Il senso era questo, non era dare un contributo di disoccupazione, mi sembra. Certamente, questo era almeno nell'ipotesi. Poi nella partenza, almeno in agricoltura, non abbiamo avuto tantissima gente che si è offerta di venire a lavorare in agricoltura percependo un reddito di cittadinanza. Qualcosa può cambiare adesso. Beh, certo, è meglio prenderlo a casa e stare a casa che andare a zappare le patate. Certo, sicuramente lavorare in agricoltura però si arriva anche a percepire degli stipendi interessanti. Può cambiare qualcosa. Parliamo di cifre. Sì. Quanto di media, su cosa possono contare le persone che fanno questo lavoro? Guardi, una persona che inizia a lavorare non avendo un'esperienza particolare, ma che ne so, a zappare gli olivi piuttosto che a fare un semplice raccolto di un prodotto senza avere un minimo di professionalità, siamo intorno ai 50 euro, 50-55 euro netti, da lì a salire. Netti. Quindi da diciamo a salire. Nell'arco del mese, per capire... Ma nell'arco del mese, se lavora 26 giorni lavorativi, cioè se lavora tutti i giorni perché l'azienda lavora e tutto quanto, si va oltre, ben oltre i 1000 rotti euro. Sì, va bene. Però dovrebbe provvedere comunque al suo mantenimento, l'azienda lo ospita pure, come funziona in questo caso? Allora, questo normalmente non è indifferente, se io devo prendermi un affitto, una casa, fare la spesa e tutto, cambiare è città. È chiaro che se io mi devo muovere da una provincia all'altra, ma molto spesso uno trova anche un lavoro raggiungibile anche con la propria autovettura, no? Come se io devo andare a lavorare al bar, magari prendo il mezzo pubblico piuttosto che prendo il treno, piuttosto che prendo perché la richiesta macchina. È su tutto il territorio nazionale. Sì, guardi, poco fa mentre c'era pubblicità ricevevo un messaggio dal mio direttore di Foggia che mi diceva: ci sono novità per il rientro dei lavoratori comunitari, perché come ne parlavamo prima sono veramente in difficoltà in una provincia della provincia di Foggia, quindi non a Milano dove magari si rischia la disoccupazione zero, no, a Foggia, quindi nel pieno mezzogiorno. Quindi le dico, lavorare in agricoltura significa anche avere uno stipendio dignitoso, quindi le dicevo, questi sono i numeri, molti li stanno incrociando, nel senso che molti stanno trovando il giusto matching tra richiesta di lavoro, distanza e quant'altro. Una esperienza, guardi, ieri parlavo con un mio collega che mi raccontava dove tre fratelli hanno trovato lavoro in un'azienda agricola. Di questi tre fratelli uno fa l'attore, uno fa la sorella fa l'esperta di pelletteria e il terzo era invece disoccupato, per dire che hanno trovato e stanno lavorando in agricoltura, proprio per dirle di come all'interno di questa galassia dei ricercatori di lavoro troviamo di tutto, troviamo da... Ecco, però diciamocelo Magrini, perché sia lei che io sappiamo cosa significhi lavorare la terra. Qual è la gradualità di contributo che può dare un ragazzo che ha fatto l'attore, una ragazza che ha lavorato magari in un lavoro impiegatizio, in un lavoro della terra? Perché sarà una gradualità, non è che lo mettete subito Portare le cassette di pomodori, ecco, diciamo, no, ma allora, ci saranno degli interventi può fare più. Allora, la prima cosa che conta è quanta voglia ha il lavoratore di sporcarsi le mani, tra virgolette, nel senso quanta voglia... Perché oggi si mettono i guanti, non ci sono più le mani callose con le unghie nere che ho abituato a vedere. In senso metaforico, per dire quanta voglia ho di investire in quel lavoro. Diciamo, si è attrezzati molto meglio. Io ho visto pestare il vino a piedi nudi, con il gelo andare a raccogliere scalfi. Oggi non esiste più questo. Ha tutte le difficoltà di fare un mestiere sotto il cielo, ma con mezzi tecnici assolutamente all'avanguardia, con prodotti agricoli che sono invidiati e sono copiati dal mondo, quindi quelle sono immagini bucoliche. Oggi, cioè, io ho visto dare del derame con la pompa senza niente, così la gente se ne respirava la metà. Oggi si viaggia, certo, con tutti quanti i dispositivi di protezione individuale, si viaggia su grandi trattori con grandi investimenti, ci sono dei mezzi. È noi siamo lavoro, i primi, sì, i primi guardiani dell'ambiente, perché noi teniamo a quel territorio e quindi siamo quelli che lo trattiamo meglio di tutti quanti. È chiaro che il primo approccio, se io non ho mai lavorato in agricoltura, è un approccio che può essere manuale, che piano piano diventa sempre più impegnativo, sia da parte, come diciamo, come mission che gli dà il datore di lavoro, ma anche come disponibilità del datore di lavoro, del lavoratore. Abbiamo anche tante esperienze in queste settimane di lavoratori che abbiamo incrociato, che hanno iniziato a lavorare e che dopo tre giorni hanno detto: questo non è un mestiere che fa per me, e quindi beh, logico. Hanno scelto poi di, come dire, cercare una nuova occupazione o stare senza lavoro per un periodo, in maniera molto onesta, in maniera molto onesta. Quindi io preferisco una situazione del genere dove il lavoratore è molto onesto e dice non è un mestiere fatto per me, però invece tantissimi stanno scoprendo. Bisogna essere realistici, spiegare esattamente che si tratta, sennò vengono, pensano, sono abituati a vedere i film delle gentildonne inglesi che vanno nella campagna toscana e sono tanto contenti. Io la scorsa settimana ho intermediato tramite la Coldiretti per tre ragazzi che stavano senza lavoro e si sono andati a zappare le piante degli olivi, a fare la zappatura, la rifinitura intorno agli olivi, e questi ragazzi stanno lavorando e sono ragazzi che hanno mediamente 20-22 anni, lo stanno facendo con dignità. Non è un mestiere particolarmente professionalizzante, però lo stanno facendo perché sanno che poi a fine mese c'è però si imparano tante cose, devo dire, si imparano tante cose, e poi passeranno magari a imparare a potare gli olivi, che non sarà una cosa facile, ma è un lavoro che si impara. Ma infatti per questo le dicevo, la disponibilità nasce proprio da questo, perché, come dire, poi abbiamo bisogno di quelli che li sanno potare, di quelli che li sanno trattare, di quelli che sanno leggere le malattie. Cioè, da e quello è un lavoro specialistico, è un lavoro che sale anche il livello retributivo, naturalmente. Assolutamente sì, ma non a caso le dicevo che quando le parlo di 50-55 euro, le parlo di una persona che è al primo ingresso e che fa un lavoro prettamente manuale puro. Dopodiché, le posso fare una domanda? In Italia esistono gli istituti professionali agricoli. Agricoli che diciamo forniscono agronomi. In questo momento quanti ragazzi che si sono appena o stanno prendendo la maturità adesso e saranno agronomi diplomati potranno accedere a questo tipo di lavoro? O loro hanno diciamo attese di tipo diverso, quindi non andranno a zappettare l'olivo, perché loro vogliono essere quelli che decidono per l'azienda, forse? No, paradossalmente molti di loro li trovi già che magari hanno già o loro stessi un'azienda, o magari i genitori hanno un'azienda, piuttosto che hanno contatti con aziende agricole, per cui sono già magari inseriti in un mondo agricolo, e quindi loro fanno le loro esperienze, anche perché poi la scuola agraria prevede anche delle esperienze, molte esperienze in campo, anche l'alternanza scuola-lavoro che loro devono fare, per loro è molto facile farla proprio all'interno delle imprese agricole. Quindi c'è una maggiore attenzione, e consideri che negli ultimi anni, proprio per la riscoperta del settore agricolo, abbiamo avuto le iscrizioni alle scuole agrarie a doppia cifra, proprio a conferma di quello che lei diceva all'inizio, di una riscoperta del mondo agricolo. Senta, so Magrini che lei deve lasciarci adesso. Ci dà un'indicazione certa per mettersi in contatto con voi, poi faremo parlare nell'ultima parte della missione tutte le telefonate, sono tantissime, e cerco di gestirle come posso. Basta andare sul nostro sito www.coldiretti.it, c'è un banner con molto evidente con Job and Country. Allora, Job and Country sul sito di Coldiretti, chi avesse questa voglia, chi avesse capito che questa può essere la sua vocazione, può tranquillamente scrivere, poi ci sentiremo con Magrini fra un po' di tempo, in pieno del lavoro, per capire poi come funzioneranno queste persone. Ancora le stanno solo testando, è un test, diciamo, è una valutazione dell'attitudine, poi vedremo sul campo, vedremo poi quanti resisteranno e quanti faranno strada. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, mi scuso con gli ascoltatori che stanno aspettando da qualche minuto, ma volevo concludere le informazioni ci avrebbe dato Romano Magrini di Coldiretti, e adesso passiamo alle esperienze vive di chi ci ha seguito e chi può dire qualcosa. Giuseppe D'Avellino, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Allora, fatti complimenti per la trasmissione, che sono praticamente scontati, ovviamente. Io ho ascoltato con molta attenzione e interesse il signor Maglini, perché vengo da una terra che è tipicamente legata all'agricoltura, cioè l'Ispinia. Quindi sì. Per quanto riguarda ovviamente la produzione di vini, la produzione agricola è fortemente importante qui da noi. E io vengo da una famiglia che è anche fortemente legata alla terra, soprattutto dal lato di mia madre. I miei nonni erano tutti e due contadini, lavoravano la terra duramente da soli e soltanto con l'aiuto delle braccia della famiglia. E volevo semplicemente dire a chi si dovesse interessare, sia in tarda età sia in giovane età magari, a questo lavoro, che comunque è un lavoro, lo sappiamo, difficile, è un lavoro che non ammette sbagli, non ammette errori. Sbagliare una semina, sbagliare un raccolto significa non poter usufruire di ciò che si è speso, che si è investito per diciamo avere un guadagno e anche per la propria sussistenza. Ma è molto complicato, è molto complicato, certo. Non è l'agriturismo, perché noi siamo abituati a pensiamo che lavorare la terra, andare all'agriturismo e vedere l'orto dietro l'agriturismo, andare a raccogliere le zucchine, i cetrioli, dire che bello, vorrei fare il contadino, ma non è così. Vero che solitamente chi ha un agriturismo ha un'attività di ristorazione o magari di albergo che è collaterale a quella dell'agricoltura, perché l'agricoltura dà un po' di incertezza. E infatti proprio mio nonno è nato negli anni 20 del Novecento e ha fatto la campagna italiana nell'Africa orientale italiana, quindi guerra d'Etiopia, ed è sopravvissuto, è tornato a casa. Però quando lui è andato via, la sua famiglia ovviamente era senza braccio, per carità, oggi non è più così, è un'agricoltura molto meccanizzata. Però c'è anche da dire che quando mio nonno negli anni 70 finalmente ha preso la gognata pensione, che purtroppo ha goduto per pochi anni, lui era esterrefatto da quest'idea che arrivassero dei soldi da qualche parte senza che lui dovesse lavorare in un campo, far crescere qualcosa, venderlo. Ed è per questo che ha voluto... Lei parla davanti a lei, una persona che i primi anni che tornava a casa, che faceva questo lavoro, conduceva la radio, sentiva dire da suo padre: adesso che ha imparato a mettere due parole in fila, chi cazzo ti credi d'essere? Quello è il senso, perché penso che sia morto senza rendersi conto come mai pagassero il figlio per parlare, dice, ma come, che lavoro è questo? Quindi la capisco perfettamente, capisco suo nonno, il lavoro e il profitto è soltanto immaginato in base alla fatica, al sudore, alle incertezze investite in qualcosa che ha una sua vita, una sua anima, una sua esistenza, ma non è certo qualcosa di amico o sempre in linea con i nostri desideri, che è appunto la terra. Aldo, provincia di Genova. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Io ho 58 anni, ho sempre vissuto in città, non ho mai fatto niente di faticoso, se non da un paio di questi anni, un piccolo fazzoletto di terra di circa 400 metri quadri, ho riscoperto, veramente scoperto, il piacere di lavorare la terra. Faticosissimo, perché io sono anche 1,90 e come diciamo a Genova la terra è basta, però la soddisfazione... Può raccogliere la frutta però, se è alto... Può sempre farsi un frutteto. Diciamo che qua quelli alti servono per dare il bianco e raccogliere i fichi. E però voi avete parlato di dispositivi di protezione. Pensi solamente che io, per assaporare ancora meglio la terra, quando pianto, dopo aver tracciato i solchi e tutto il resto, metto il seme o la piantina direttamente scavata con le mani, perché proprio ho il piacere di toccarla. Ed è come avessi scoperto... Ma la terra va toccata, perché per capirla va toccata, mica basta... Un ritorno esattamente, certo. Nicoletti, va toccata. E capisco che è faticoso, capisco tante cose, però io consiglierei veramente di fare un'esperienza del genere a tante persone, soprattutto quelle che si trovano in difficoltà in questo momento, e anche ai giovani, perché è un ritorno ad essere quello da cui veniamo in fondo. Un lavoro bellissimo, che ti uccide, perché io non penso che da qua a quando andrò in pensione, cioè mai a 90 anni che saremo già stramorti, continuerò a zappare e a cimentarmi come faccio adesso, però ne vale veramente la pena, Nicoletti. Vabbè, il suo è un punto di vista logicamente legato a un'attività hobbistica, lei ha un bell'orto e lavora il suo bell'orto, non ha un padrone sopra, non ha scadenze, e se poi le va male il raccolto dei pomodori non è che se ne fa poi un problema, non è la sua sussistenza basata da quei pomodorini, se li va a comprare al mercato. Matteo da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti e complimenti per la trasmissione. Io ho lavorato qualche anno fa, quando avevo circa 18-20 anni, studiavo ancora, come raccoglitore di uva in Trentino, un lavoro stagionale che dà soddisfazione rispetto magari ad altri lavori più meccanici, più ripetitivi. Ma molti studenti andare un mese a raccogliere l'uva, a raccogliere la frutta, via dicendo, una maniera per arrotondare, avere un minimo di propria sussistenza e poi fare anche un'esperienza. Esatto. Si stava liberi, sì. Si stava fra ragazzi, si dormiva nell'azienda, io mi ricordo questa formula. Però volevo tornare su quello che di cui parlava il suo ospite di prima, parlava di una paga di questi 50 euro al giorno o 1000 euro al mese che lui riteneva dignitosi, insomma, per lavorare in campagna. Non lo so, mi sono venuti subito in mente i lavoratori di Rosarno. Quelli magari si sognano, sì, magari sì. Per loro, guardi, sicuramente non ho sono capito cosa dice. Lei dice 1000 euro al mese sono pochi, non è uno stipendio dignitoso per lavorare tutto il giorno. Guardi, io non entro in mezzo perché non ho elementi, non so a cosa erano relativi, a che tipo di lavoro, a che tipo di orario, a quale tipo di impegno, con quali condizioni. Io penso che sia quello che sia la paga minima sindacale consentita, immagino, non voglio dire, per non rientrare nel termine dello sfruttamento. Quello è, io penso che sono persone a cui non fa schifo prenderne 600 senza far niente a casa, ecco, questo è il discorso. Quindi evidentemente per loro forse prendere 1000 lavorando potrebbe essere una maniera per sentirsi più in pace con se stessi, questo immagino. Oddio, è anche vero, perché se per quella cifra venivano 200.000 braccianti tra rumeni e di altri paesi, per loro doveva andare bene per forza, bisogna un po' capire bene. Però a questo momento noi, diciamo, non voglio entrare in merito alla questione salario, se 1000 euro sono pochi, sono tanti, è comunque un lavoro che viene offerto nell'ambito degli accordi sindacalmente fatti e stabiliti, e quindi lo sfruttamento rientra a qualcosa che è al di sotto di quello che è stato stabilito. Se per i sindacati quella una paga giusta, non sono certo io a capire, non ho parametri per dire se è poco o tanto. Sto parlando in un'occasione di lavoro, poi si può entrare in merito se è poco pagato, se è molto pagato, se bisogna fare battaglie per essere pagati di più, però intanto il fatto che molti italiani, di fronte al nulla, alla situazione drammatica che c'è, cambiano la loro vita, le loro abitudini e vanno a fare questo lavoro, è un fenomeno secondo me da tenere in osservazione, da guardare con spirito ottimistico. Luca da Milano. Sì, ciao Gianluca, buongiorno. Sì. Guarda, ti chiamo perché allora io sono un fotografo e 2 settimane fa mi ero un attimo messo alla ricerca di situazioni di agricole, appunto, dove gli italiani si fossero messi a disposizione della, mettiamola così, un attimino, per capire quali fossero le motivazioni di base delle persone e che tipo di ventaglio umano e sociale riuscissi a trovare. In che zona tu hai, diciamo, congelato il tuo sguardo? In che periodo? In Emilia Romagna, in un'azienda che lavora e produce per Orogel, quindi si parla di grossa distribuzione, spalle larghe e quindi capacità di ottenere comunque sul territorio, quindi con anche una prossimità territoriale semplificata ovviamente per il tipo di lavoro, per il lavoratore, tutta la manodopera necessaria. Ma quello appunto è il settore grande distribuzione, spalle larghe. Dammi la tua sintesi. Nel veronese invece, nel senso, ho avuto la percezione di quelle che sono le difficoltà sociali che poi portano le persone in questo momento a fare questa fatica, perché è uno sforzo considerevole. Sono stato in un'azienda dove si sta raccogliendo fragole e ho incontrato 2 famiglie di giostrai, una di 4 persone, dove tutti sono andati a lavorare nei campi lasciando i bambini a casa con la nonna novantenne, e un'altra famiglia di 3 giostrai che non ha retto dal 6° giorno, hanno mollato. Loro mi dicevano: è una settimana che andiamo avanti gli antidolorifici. Poi c'è il ragazzo che lavora al Teatro Lirico di Genova come Mimo, che ha lavorato i primi 10 giorni della mensilità al teatro. Vabbè, Luca, la sigla ci porta via. Insomma, tu hai avuto un'occasione realistica e conferma quello che abbiamo già detto. Non è una passeggiata, non è un lavoro semplice, è una possibilità comunque di evitare di non avere nulla da fare e non avere nessun tipo di introito. Alla prossima.